Vi presentiamo ora Eclettica. Le trasmissioni proseguono ora a diffusione regionale. Spettacolo di cartoni animati. Oh, got me wrong! I'll send that sting, you gutless yellow pie slinger! He's an asshole. I don't care what Tannen says, and I don't care what anybody else says either. La Norvegia degli Ungdomsskolen ad aprire quella che è la seconda parte di Eclettica di quest'oggi, tutti i giorni fra le 19 e le 20 sulle frequenze di Rock FM. Ungdomsskolen che ci siamo ascoltati con Ordinary Son. Poi è stata la volta invece degli statunitensi Ursula Points, di cui si è appena chiusa Soft Noon. E si rimane negli Stati Uniti in quanto sta per arrivare, ormai pronto, e sta per arrivare per la precisione il 22 di gennaio per Social Registry, il nuovo album da parte del trio Blood on the Wall, nuovo album che avrà per titolo Lifers. Il trio dei Blood on the Wall, formato da fratello e sorella, Brad and Courtney Shanks, più il batterista Miggy Littleton, che ha sempre avuto occasione di ricordare quanto sia il loro amore per i Pixies. Da questo album io vado a farvi ascoltare Junkie Julie. C'era una luce viperina nelle chiome degli alberi ritagliati contro il tramonto. E Harp pensava: crepaste tutti, avessi la forza di accopparvi? Pietoso, ma anche convinto. Potessi cancellarvi, dal primo all'ultimo, uomini, donne, neonati, infame marmaglia che impesti il pianeta. Buono, Harp, non fare l'energumeno. Non farti tornare la mania omicida, sogghignò il vecio. Perché il vecio possedeva la bizzarra qualità di indovinare gli umori storti altrui. «Zitto tu! Non sono un tuo centravanti!» brontolò Harp. Questo era l'incipit di Azzurro Tenebra, di Giovanni Arpino. We'll be right back. it, say it, say it, say it, say it, say it, say it now. Già ce l'eravamo ascoltati nella versione definita Soul Wax Dub, su cui avevano messo mano i due fratellini belgi che utilizzano il nome Soul Wax, e invece quest'oggi ce lo siamo ascoltati nella sua versione originale da parte degli Hot Chip, Ready for the Floor, un estratto dal loro nuovo album. Come nuovo è anche Sideways Here We Come, il pezzo che l'aveva preceduto da parte dei neozelandesi Die Die Die, con i tre punti esclamativi a caratterizzare ogni singolo Die. Per chiudere con un brano che invece nuovissimo non è, pur essendo al suo primo passaggio in eclettica, dei The National ci siamo ascoltate tante canzoni, ma non ancora, Mistaken for Strangers. As long as you look removed, showered and blue. to believe in your heart of hearts. Say you have something to wear on your sleeve of sleeves. So you swear you just saw a feathery woman carry a blindfolded man through the streets, showered and Eclettica, stagione numero 14, settimana numero 11, volume numero 2. Indice, Stephen Malkmus and the Jicks. Sia, Cave, Kuzo, Ungdomsskolen, Ursula Points, Blood on the Wall, Die, Die, Die, Hot Chip, The National. Cari amici, il vostro programma è terminato. Vi diamo appuntamento a domani alla stessa ora. Cari amici, il vostro programma è terminato. Arrivederci.